Italia in controluce. Programma Governo Letta, libro dei sogni oppure Realpolitik? Questa è la domanda che vi facciamo, cioè secondo voi il discorso che ha fatto oggi Letta e anche ieri, oggi al Senato, ieri alla Camera, ottenendo ovviamente la fiducia come era previsto, è un libro dei sogni oppure un Realpolitik? Chiamiamola così. Il governo sotto la guida di Enrico Letta dunque supera le prove della Camera e del Senato. Il dissenso parlamentare rimane contenuto, anche se nell'elettorato democratico resta ancora forte critica alla dirigenza. Questa mattina abbiamo avuto tra gli ospiti Pippo Civati, che ci ha confermato la sua contrarietà a questo governo di larghe intese. Nel suo discorso alle Camere Letta ha elencato tutti i punti della sua missione. A giugno non si paga l'IMU, niente aumento dell'IVA, via libera al reddito minimo garantito, via i doppi stipendi dei ministri parlamentari, tagli alla politica, sia la convenzione sulle riforme che dovrebbe essere presieduta da un esponente del Popolo e Libertà, si parla addirittura dello stesso Silvio Berlusconi. Ma sarà il solito libro dei sogni oppure la risposta all'antipolitica della politica? Questo di Enrico Letta. 349-238-6666, questo è il numero per i vostri sms. E mi collego subito con Elisabetta Fiorito. Sì, Daniele, qui al Senato intanto è iniziata la chiama nominale per il voto di fiducia. Ricordiamo, è un rito, la fiducia è palese, non ci possono essere franchi tiratori, perché i senatori, come anche i deputati ieri, sono chiamati uno ad uno e devono entrare e passare sotto il banco della Presidenza e dire sì, no o astenuto. Però ricordiamo le parole di Letta questa mattina qui al Senato per ottenere la seconda ed ultima fiducia ed entrare nel pieno dei poteri. Letta ha parlato di una situazione di grandissima difficoltà ed emergenza, inevitabili le grandi intese, ma attenzione anche alle troppe aspettative, no? Dice: la mia giornata, ha detto Letta, è iniziata con preoccupazione perché ci sono delle aspettative assolutamente eccessive nei confronti di questo governo. Ovviamente dopo 60 giorni di mancato governo è ovvio che in un momento di crisi gli italiani hanno moltissime aspettative rispetto a questo governo di larghe intese. Però Daniele, c'è già la prima grana del governo di larghe intese, e la prima grana è l'IMU. Perché? Perché ieri Letta ha detto che c'è uno stop alla rata di giugno, ma ancora non si è parlato di abolizione vera e propria, abolizione che invece viene chiesta dal PDL e da Silvio Berlusconi, che ha subito avvertito abolizione o non ci stiamo, mentre il ministro per gli affari regionali Graziano Del Rio parla di una rimodulazione, Dario Franceschini, ministro per i rapporti con il Parlamento, parla di una proroga. Quindi bisogna vedere un attimo cosa succede sulla tanto odiata tassa per la casa. Daniele. Ecco, proviamo a sentire una serie di frammenti e poi ci ritorniamo. Intanto, per esempio, Maria Rosaria al 349-238-6666 scrive che secondo lei il governo Letta è un governo di cosmesi e da libro dei sogni, la cui realizzazione occorrerebbe almeno un ventennio. C'è chi come Massimo, ex del PD, mi ricordava, appunto, se ero io che dicevo che se il PD si allea col PDL era finito. Io penso che il Partito Democratico abbia commesso un errore politico madornale e con ogni probabilità un pezzo piuttosto consistente dell'elettorato, se si dovesse andare a votare oggi, il Partito Democratico potrebbe prendere almeno 10 punti di meno. Lo dico per esperienza, perché l'elettorato del Partito Democratico aveva votato quel partito per un governo di non di larga intesa, un'alleanza con il PDL, ma certamente un governo di alternativa, cosa che oggi questo governo non è, perché deve comunque, come ci diceva anche la stessa Elisabetta Fiorito, fare i conti con i suoi alleati, e del resto questa è democrazia, ma la democrazia prevede anche una contro, diciamo, replica da parte dei diretti interessati, che alla fine della fiera sono gli elettori. Sentiamo Enrico Letta. C'è un grande problema, c'è un carico di aspettative assolutamente eccessivo su questo governo rispetto a tutto quello di cui il Paese avrebbe bisogno e che è stato anche qui ripetuto, e rispetto alla oggettiva, e la voglio ripetere qui, fragilità di quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo. Se non c'è consapevolezza di questo e se c'è invece la sensazione che tutti i problemi sono risolti, abbiamo oggi un governo forte, fortissimo, che è a posto, che ha risolto tutto e che quindi da domattina è in grado immediatamente di dare risposta ai tanti problemi che ha il Paese. Io credo che abbiamo tutti sbagliato, non è così. La situazione che abbiamo di fronte è, rimane una situazione di grandissima difficoltà e di grandissima emergenza. E la scelta che tutti insieme qui oggi facciamo e abbiamo fatto è figlia di questa situazione di grande emergenza. Allora, Elisabetta Fiorito, ritornando al dissenso, è veramente tutto rientrato oppure ci sono ancora mugugni? Ma nel PD, lo sappiamo, è un partito, come lo definisco io, molto democratico, e quindi un pochino di mugugni ci sono, però poi bisogna anche capire che è stata per esempio rimandata l'assemblea di una settimana, cioè si deve tenere sabato prossimo, si terrà l'11 e si aspetta poi il famoso congresso, perché ovviamente si aspetta il famoso congresso, sappiamo che Pierluigi Bersani è un segretario di missionario, per vedere cosa succede. Però a parte di questi mugugni, per esempio Zanda dice sì per salvare l'Italia con più lavoro ed equità, quindi è chiaro che questo è un boccone amaro. Io ieri ho sentito Dario Franceschini che mi ha detto: noi continuiamo a essere avversari, però adesso dobbiamo fare queste cose e poi dopo si ritornerà al voto come avversari politici. Ecco, allora sono arrivati, grazie Elisabetta Fiorito, sono arrivati moltissimi sms, da come Fabio da Verona ci diceva e ci scrive che la speranza del PD per non perdere 10 punti è presentarsi con Renzi. Dice: c'è molta demagogia dietro al discorso di Enrico Letta, anche se pressati da 5 Stelle. Il problema è che molta della destra non è moralmente adeguata, con scarso senso civico e sociale. Vediamo cosa faranno. A me sembra il solito vecchio populismo, dice Giulio da Frosinone. Ma dove li trovi i soldi per fare tutto questo programma? Se si possono togliere, perché? Dice: perché non l'hanno fatto prima. Si doveva votare a novembre del 2011, dice un altro ascoltatore. Questa farsa finirà quando lo deciderà Berlusconi, e voi lo sapete. Antonio da Napoli. Governo non credibile. L'unica buona notizia è che questo paese ha un'opposizione dura e seria con la schiena dritta, che è mancata per 20 anni, dice Marco da Torino. Mai più PD, un altro ascoltatore. Con troppe aspettative non si fa nulla. Questo governo è un inganno ai danni del popolo, non potrà durare, un altro ascoltatore. Letta finge di dimenticare che se il PD non ha vinto, perché tanti non hanno più votato, perché l'inciuccio c'era già da prima, Manuele. Certo che vedere Franceschini è come vedere De Mita che avanza, Vittorio. Un'altra ascoltatrice, Serena da Savona: appena ho ascoltato il discorso di Letta ho provato una certa speranza, poi pensandoci bene mi è passato un po' un sogno, poi non ho fatto cenno a come troverà i fondi per stoppare l'IMU e fare tutto il resto. Libro dei sogni, che se dovrebbe essere vera politica, politica reali, ma il libro dei sogni al massimo a fine estate ce ne renderemo conto, dice un altro ascoltatore. C'è poco su difesa e sicurezza. sicurezza, scrive Giuliano da Roma. E c'è chi si chiede anche a questo punto che fine ha fatto la sinistra. Beh, la sinistra, diciamo che quella almeno parlamentare, così come con le posizioni tra virgolette alternative, direi che ormai non esiste più, e su questo non c'è ombra di dubbio. Ma tutto questo, il dibattito politico sul nuovo governo, si mischia anche con l'inchiesta sulla sparatoria davanti a Palazzo Chigi. Andrea Viali. Sì, è così, e tra l'altro il governo su questa sparatoria, Daniele, riferirà oggi in Parlamento. A farlo sarà il vice premier che è anche ministro dell'interno, Angelino Alfano, che parlerà prima a Palazzo Madama, naturalmente dopo il voto di fiducia che è in corso, e successivamente anche alla Camera dei Deputati, e riferirà su un caso, lo sappiamo, ne abbiamo parlato, che è di cronaca ma che in realtà ha scosso molto la politica, intanto perché si è capito, lo ha ammesso lui stesso, che l'intenzione iniziale di Luigi Preiti, questo disoccupato che ha ferito i due carabinieri sotto Palazzo Chigi, era proprio quella di uccidere un politico, ma anche perché poi nelle ore successive alla sparatoria ci sono state anche molte polemiche e attacchi, soprattutto nei confronti del Movimento 5 Stelle, che è stato criticato e accusato di aver alimentato con i suoi attacchi il clima di esasperazione e di odio nei confronti della politica. Sono accuse alle quali Beppe Grillo ha risposto definendole, bollandole come un'operazione di sciacallaggio, e il leader 5 Stelle ha anche sottolineato che il suo è un movimento pacifico. Oltre a questo c'è da dire anche che ci sono stati alcuni politici, pochi per la verità, che nelle ultime ore hanno manifestato anche qualche dubbio sull'ipotesi che la sparatoria di Palazzo Chigi sia stata soltanto il gesto di un gesto isolato di una persona, per quanto disperata, ecco. Diciamo, però di questo c'è da dire che la Procura di Roma sembra sempre più convinta, e gli inquirenti al momento escludono che possano esserci dei mandanti o dei complici. Domani comunque Preiti sarà di nuovo interrogato, sarà interrogato dal GIP a Rebibbia, e probabilmente emergerà qualche dettaglio in più, come sarà naturalmente interessante sentire anche cosa dirà oggi pomeriggio Alfano, Daniele. Grazie, vi leggo soltanto due sms, siamo in chiusura. Nicola da Milano: questo governo è molto adeguato al nostro momento storico e farà sicuramente bene. E poi un altro ascoltatore che si chiede: ma come e dove troveranno i soldi? È difficile risparmiare il 5% sui costi dello Stato, nelle nostre famiglie abbiamo fatto molto molto meglio. Grazie a tutti, ci risentiamo nella giornata di dopodomani. Domani è 1° maggio, va in onda un altro tipo di programmazione, ma noi torniamo puntuali come sempre dopodomani, 2 maggio.